A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio, buon campionato. Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia. C'è stata la diaspora, molte superstar se ne sono andate dal nostro campionato, come sapete bene. Altre se ne andranno, ad esempio Gaston Ramirez, che non è stato nemmeno convocato da Pioli per la partita di domani. Meno campioni, magari meno qualità, anzi certamente, io credo, meno gol, qualche giovane in più, ma le parole certo non mancano, anzi sono già fin troppo in questa settimana che ci ha accompagnato verso il campionato. Buon ultimo Antonio Cassano, che oggi è stato presentato dall'Inter e in maniera, a mio parere, molto inelegante ne ha avuto un po' per tutti, a cominciare da Galliani. Cominciamo a sentire un Cassano, poi ne sentiamo altri e poi sentiamo le vostre voci. 800 24 00 24. Io ho detto quel giorno: se sbaglio sono da rinchiudere al manicomio. Siccome non ho sbagliato io, ma ha sbagliato qualcun altro lì, non dico né i giocatori e neanche l'allenatore, qualcun altro che sta sopra l'allenatore, che non mi va neanche di fare il nome, che prometteva, faceva tanto fumo e poco arrosto, a me non mi va bene. Quando uno mi prende in giro, a me non mi va bene. Siccome quell'altro faceva il furbo, a me non andava bene e io devo andare via. Sono dovuto andare via. No, forse voleva un contratto più lungo, dopo essere stato lungo degente per tanto tempo. Ne ha avuto anche per Allegri, dicevano l'ultima scelta. Sì, ma è anche stato fuori tutta la stagione, mi l'ha messo in condizione di comunque di andare all'Europeo. Saluto e ringrazio il mio amico Enzo Bucchioni, direttore di QS. Ciao Enzo. Ciao, buon pomeriggio, ben ritrovato. Ciao Carlo. Cassano ti è piaciuto oggi oppure no? Mi è piaciuto Cassano. Cassano è divertente, non può non piacerti Cassano. Divertente. Poi che sia anche tamarro, aggiungiamolo sì. Pure. Poi è difficile calarsi nei suoi pensieri, sinceramente non ce la faccio, posso dire. No, ma meno male, nemmeno io, meno male. Mi sforzo disperatamente, ma Cassano ha giocato 5 mesi, mi pare, nel Milan, 6 mesi. Sì. Ricordiamo che il Milan l'ha preso quando era stato cacciato dalla Samp, che l'aveva messo... Era su una strada, certo. Sì, era sulla strada, Garrone, ha detto non ti voglio neanche più vedere, di quanto sei lungo e largo, di un giocatore così ne posso fare a meno. È stato Galliani che sicuramente ha intravisto l'affare e affare ha fatto, però voglio dire, ho un minimo di riconoscimento, sai, a questi livelli è quando hai altro per la testa, se non contratti, prolungamenti di contratti, soldi, poi i valori come sempre nel calcio vanno a farsi benedire. In questo caso ha prevalso l'utilitarismo, evidentemente l'Inter gli ha promesso di più, un contratto per lunga scadenza. Però ricordiamo poi l'operazione l'anno scorso, a parte che un medico del Milan ha salvato la vita a Cassano, anche qui possiamo sorvolare, possiamo aprire una parentesi, ne ha parlato Cassano, ha ringraziato tutta la famiglia Berlusconi che ha messo a disposizione un impero, Tassotti che era suo amico, eccetera eccetera. Allegri no, non era suo amico. Ma insomma, storia di calcio l'abbiamo visto tante volte, soprattutto quando poi vai a toccare certi personaggi che sono estemporanei, non dico di più. Spero per lui che sia la scelta giusta, che regali ancora squarci di calcio, perché lì sì, in campo a volte è bravo. Serve all'Inter. Ma serve all'Inter, mi sono chiesto anch'io se serva un giocatore così, ce l'hanno tanti di quel tipo lì. Appunto, overbooking. Sì, non dovevano puntare sui giovani, c'è Coutinho che un po' assomiglia a Cassano, dove lo metteranno? In panchina un'altra volta. Palacio, un altro giocatore attaccante leggero che va sulle fasce. Non lo so, evidentemente Stramaccioni è un progetto tattico che in questo momento ci sfugge un pochino, e magari con tre dietro un'unica punta, tre, chiamiamoli trequartisti o seconde punte, mi sembra che io avrei preso un attaccante per fare... Anche perché ne resta uno, eh? Sì, è Milito, qui siamo in presenza di un profondo rinnovamento. L'Inter è intrigante come progetto, no? L'allenatore è nuovo, Stramaccioni, poi vai a vedere l'ossatura portante della squadra è sempre costituita dai quattro argentini che non cambiano mai: Milito, Cambiasso, Samuel e Zanetti, inossidabili. C'è un qualche contraddizione, però la squadra non è attrezzata male. Se riuscirà a dare un gioco, una fisionomia importante, credo che possa fare bene l'Inter. Senti, tra una cinquantina di minuti capiremo anche come è attrezzata la Fiorentina, che è, ho definito prima reginetta del mercato, che sogna ancora il top player, mettiamola così, visto che se ne parla tutti i giorni mille volte, che potrebbe essere Berbatov oppure qualcun altro. Intanto il suo top player se l'è tenuto ed è Jovetic. Fiorentina molto ben costruita da Pradè, secondo me. Sì, molto, è stata costruita in maniera intelligente, sono stati presi i giocatori giusti per fare un certo tipo di calcio, è stata fatta un'operazione a tavolino, concertata, e non sempre nel calcio succede, fra il direttore sportivo, la società e l'allenatore. Si sono messi lì con risorse relative, perché il mercato della Fiorentina è costato meno di 20 milioni di euro, non sono pochi di questi tempi, però quando compri 12 giocatori e porti a casa anche dei giocatori interessanti, cito uno su tutti, Aquilani, per non parlare poi di Pizarro, quindi Borja Valero, che era nel giro della nazionale spagnola fino a poco tempo fa, giocatori tutti interessanti, importanti, a basso prezzo, quindi è stata fatta un'operazione low cost di grande intelligenza. Sono molto curioso di vedere in campo questa squadra, fra l'altro un allenatore molto giovane, tutto il mondo del calcio ne parla benissimo, e quindi non è il suo amico solito di passaggio, qualcuno che vuol poi metterti in difficoltà, tutti, dall'ambiente romano, l'ambiente catanese, altri esperti di calcio credono molto in questo allenatore. La Fiorentina potrebbe essere la sorpresa della stagione, speriamo a vedere. Oggi gioca contro un Udinese che ha in testa il Braga, non giocherà di Natale, ampio turnover, ma com'è giusto che sia in questo momento. Questo clima da tutti contro tutti, perché oggi allora c'era Cassano con Galliani e poi con Allegri, poi li risentiamo, sentiamo le repliche, perché è diritto di replica anche ad Allegri. Zeman, che se l'è presa con Conte, dice anche questo, poi lo sentiremo, ma non ci sarebbe un deferimento per quelle parole. Mazzarri contro Carrera, tutti contro tutti, e non si è ancora cominciato a giocare, figurati un po'. Ma io di questo sono molto preoccupato. Si è cominciato in Cina con la Supercoppa, con quello che sappiamo, il Napoli addirittura mi ha lasciato ritirare la squadra, non è andata a prendere la medaglia del secondo posto, fra l'altro una bella figura internazionale subito, tanto per cominciare. Sì. Io sono molto preoccupato perché il nostro campionato sta raschiando il barile dal punto di vista tecnico, come dicevi tu, prima tutti i grandi se ne sono andati, ci sono rimaste le risse continue, verbali, tutti contro tutti, e vedo un'assenza delle istituzioni, perché come dice Zema, ma dovrebbe valere anche per lui, la cosa che parla spesso poi si dimentica quante accuse fa. Le regole ci sarebbero per deferire, per punire, per chiunque parli contro un altro tesserato, mi sembra che ci sia molto chiara una regola. Fanno tutti finta di non sentire, c'è un assalto alla dirigenza. Io credo che si stiano preparando le grandi manovre per le elezioni sia in Federcalcio che in Lega, e quindi un centimetro guadagnato magari dal punto di vista dialettico oggi ti può servire domani, un nemico in meno, un amico in più, un alleato. Insomma, c'è una guerra di posizione che io credo che sia propedeutica a conquistare quei posti che presto saranno messi ai voti. La corsa alle poltrone, a prescindere dalle idee personali, ognuno ha la sua su Conte. Continuo a pensare che la giustizia sportiva, nata per risolvere altri problemi molto più semplici, vada rivista. Non sono questi i tempi, probabilmente, anche perché ci saranno le elezioni, però da qualche parte bisogna cominciare, Enzo. Ma sì, guarda, noi abbiamo detto spesso anche nelle tue trasmissioni, sempre molto approfondite, che sarebbe il momento di fare punto e di riflettere, e di fare uno stato generale del calcio per rifondare non solo la giustizia sportiva, ma per riscrivere le regole un po' di tutto il movimento, perché sono regole vecchie. 30 anni fa, 40 anni fa c'erano le stesse regole, forse anche di più. Il calcio è cambiato enormemente, come è cambiata la vita di tutti i giorni. Ci vuole un adeguamento assoluto. Il calcio è diventato un business favoloso, siamo arrivati con le regole ancora dilettantistiche di quegli anni lì. Non si vuole cambiare nulla, perché fa bene evidentemente a chi governa da troppi anni, ma mi sembra che sia il momento giusto. Come è successo per il paese, il momento delle riforme è arrivato anche per il calcio, secondo me, altrimenti resteremo a lungo fuori dal grande giro e lontani di quelli che contano in Europa. Ci vorrebbe un uomo forte in grado di imporle, se vogliamo. Enzo, rispondiamo insieme al primo ascoltatore di oggi, poi ti saluto. Mario da Genova. Mario? Sì, buonasera, grazie. Spenga la radio per favore, se no non sentiamo. Grazie. È spenta, non mi sentite? Eh? Adesso sì. Adesso sì. No, adesso no, perché non è vero che è spenta. Provi un po'. No, niente, non riusciamo a parlare con Mario da Genova, pazienza. Allora chiudo con Enzo Bucchioni, chiedendogli un parere su sulla squadra da molti ritenuta più interessante e intrigante, che indovina qual è? La Roma. La Roma. Ma Sì, io ho messo anche altri prima. La Roma, dov'è intrigante? È intrigante il progetto, perché quando prendi Zeman prendi tutto il pacco. Zeman può andare incontro a una stagione straordinaria, bellissima, con grandi giochi, grandi risultati, ma c'è poi il rovescio della medaglia, almeno la storia di questo allenatore parla chiaro. Avrà imparato negli anni a far difendere le sue squadre, punto interrogativo, perché l'equilibrio non è mai stata la forza di Zeman. E prende un allenatore ingombrante su tutti gli aspetti. Sicuramente la squadra è attrezzata bene, però gira tutto attorno a questo personaggio che sta in panchina, che ripeto, può fare bene bene, ma non voglio assolutamente, ma anche male male, è già successo. Sì, perché sì, spesso sì. Si fa. No, ha bisogno di avere tutti dalla sua parte, ha bisogno di creare un po' di settarismo, no? Sì, settarismo o comeinismo si diceva una volta dal punto di vista tattico, devono essere tutti d'accordo con lui. Se comincia qualcuno all'interno dello spogliatoio a non essere d'accordo, mi viene in mente uno a caso, Totti. Per ora non ci sono avvisagli e non voglio sicuramente tirarle fuori io, per l'amor di Dio. La Roma è sicuramente una delle candidate allo scudetto, però secondo me è stato un azzardo prendere Zema, che può essere un azzardo bellissimo o anche avere qualche controindicazione. Io pensavo che il personaggio, andando avanti con gli anni, fosse un pochino maturato, invece lo vedo sempre avvolto nelle stesse polemiche che durano ormai da 20 anni. E secondo me, se Zeman riuscirà a superare questo suo momento dialettico, questa sua situazione di pancia che si trascina dietro da troppi anni, dal doping della Juve ad oggi, secondo me sarà più amato e potrà lavorare in maniera più serena. Sì, servono altri argomenti, ma su questi si è costruito alla fine il suo personaggio. Enzo, io ti ringrazio, buon lavoro, buon campionato. Grazie a te, grazie a tutti, buon pomeriggio, a presto, ciao. Grazie Enzo Bucchioni, 800240024, numero verde per intervenire, messaggi 349-238-6666, c'è anche chi scrive, ma perché sull'onda dello scambio Cassano-Pazzini in Milan e Real non scambiano il prestito di Pato e di Kakà? Perché Pato, perché Kakà è un giocatore sano, Pato chi lo sa? Chi lo sa se è ancora un giocatore? Traffico. Mario che scrive: Conte deve essere deferito, chiunque altro lo sarebbe stato, e sono d'accordo con lui e con Zeman. Chi scrive: Zeman è l'unico che dice la verità, perché deve cambiare, perché si è costruito, caro ascoltatore, il suo personaggio su questa crociata, grosso modo anti-juventina, su questa crociata un po' contro i mali del calcio. E però sarebbe ora anche di trovare qualche altro argomento. Su questo sono d'accordo con Bucchioni, che abbiamo sentito prima. Allora, tre considerazioni rapide, poi mi dite la vostra, cosa ne pensate. Solito avvio con il coito interrotto, si giocano due giornate, questa è la prossima domenica, tra l'altro in gran parte in notturna, ed è, mi sembra il caso, visto che fa ancora un caldo becco su tutta l'Italia, quindi anticipo oggi alle 18, poi 20:45 per la partita di stasera, alle 18 domani Milan-Sampdoria con Pazzini in campo, 20:45 per tutte le altre, stessa musica per la seconda di campionato, e poi si sta fermi due settimane per gli impegni della nazionale, cosa che io continuo a non digerire, anche se capisco benissimo che è il grande spot per chi i diritti televisivi li compra e li paga a salati. Ci sono altre novità, i 5 arbitri mi sembra una soluzione interessante, una soluzione che mi piace, anche se continuo a pensare che una volta tanto la penso come Blatter, che il chip nel pallone o una soluzione tecnologica per certi aspetti che non siamo viola in campo naturalmente risolverebbe in maniera più decisa e decisivi i problemi. C'è la cosa delle panchine lunghe, che trovo un'evoluzione interessante, perché è giusto che si possano portare tutti i giocatori appartenenti alla rosa. 800240024, numero verde, Francesco da Pescara, Riccardo da Cagliari, uno dopo l'altro. Francesco. Sì, volevo intervenire per quello che ho sentito riguardo a Zeman, ma mia una critica, perché ritengo che le osservazioni fatte siano assolutamente prescindano, cioè dalla controparte che Zeman ha avuto in questi anni, e cioè dalla Juventus, da Moggi, da Calciopoli. Premesso che Radio 24 è una delle pochissime trasmissioni che ancora riesco ad ascoltare, credo che svolga anche, come dire, abbia un impatto culturale a livello sportivo importante, quindi ci tengo che finalmente recepisca quello che è successo. Cioè, Calciopoli, al di là adesso del problema Juventus o non Juventus, è come un po' uno spartiacque prima di Cristo e dopo Cristo. Sì. Continuare a giudicare Zeman come se non ci fosse stato nulla secondo me no, ma non è, come se non è come se non ci fosse stato nulla. Converrà però che Zeman su questa crociata anti-Juventina cominciata con le storie di doping, con le denunce eccetera eccetera, si è costruito il suo personaggio. Questo mi sembra un dato di cronaca, no Francesco? Poi che su molti punti abbia avuto ragione, che poi su molti punti sia uno che ci mette la faccia, lo ha fatto anche oggi e poi lo sentiamo, non perde occasione certamente di tirare sassi o sassolini, questo lo sa anche lei, no? Non sto discutendo Zeman né come allenatore né come personaggio. Su questo registro Zema si è costruito comunque il suo personaggio, la sua carriera, no? Io ho l'impressione che sia la cassa di detonazione del, come dire, giornalistica che l'abbia fatto, perché ritengo invece che Zeman stia parlando, abbia parlato sul campo nell'ultimo anno viene ricordato prevalentemente ha fatto grandi stagioni, ha fatto piccole stagioni, l'ultima Pescara è stata straordinaria, ma non sono invenzioni giornalistiche, sono cose che Zeman ha detto nel corso degli anni e lo ha fatto anche oggi, anzi se vuole glielo faccio sentire subito, eccolo qui. Grazie Francesco. Intanto processo mediatico e sono cose che poi deve giudicare sempre a disciplinare. Io penso che una volta se si permetteva di dire certe cose uno veniva deferito e squalificato. Lui non ha mai detto fuori che cosa ha detto, che cosa ha fatto negli spogliatoi, penso che l'hanno detto gli altri. Poi il discorso che in Italia se uno denuncia non è credibile, se non denuncia diventa omessa denuncia. E quindi poi è difficile valutare, però lui non è mai venuto fuori a dire io ho detto questo. Sassolino lo tira, tac, nello stagno bianconero come sempre fa, no? 800 24 00 24, Dima da Barletta. Salve, buonasera. Buonasera. Volevo chiedere, io non sono d'accordo con chi dice che Cassano per l'Inter non sia un buon acquisto, perlomeno dubbioso. Io penso che nel suo ruolo, mi sentite? Sì, più o meno, dica. Nel suo ruolo penso che sia uno dei più bravi in Italia, quindi anche se l'Inter ha dei, come dire, dei... Qual è secondo lei il ruolo ideale di Cassano? Ma è come quello della Sampdoria, come giocava nella Sampdoria, esterno. Esterno a supporto delle punte. Quindi chi dice che ha dei giocatori che sono come Cassano, io penso che Cassano abbia qualche punto in più rispetto agli altri, perché io non sottovaluto manco il fatto che lui è interista. Può sembrare banale, però ci può mettere cuore, ci può mettere impegno, sì, anche in virtù di questo fatto. Non so cosa ne pensate. Fino alla prossima, adesso certamente, fino al prossimo giro di valzer. Il ruolo di Cassano è grosso modo quello di seconda punta, cioè di giocatore che danza intorno ad una prima punta come può essere Milito. L'Inter in questa tra mezze punte, trequartisti eccetera ne ha tanti, perché è inutile stare a citare tutti, a partire da Sneijder per finire con Alvarez, anche se poi hanno caratteristiche vagamente leggermente diverse. Aveva Coutinho che voleva lanciare eccetera eccetera. Cassano va ad aggiungersi a questo pacchetto. Poi come abbia intenzione di farlo giocare Stramaccioni io non lo so, lo scopriremo magari già da domani, visto che è tra i convocati, mentre non lo è Maicon. Un altro Cassano lo sentiamo, sempre contro il nemico Galliani. Tanto lui dirà sempre che ha ragione lui non ha promesso niente, dirà sempre queste cose qua. Lui andava d'accordo solo con la gente che gli leccava. Io non sono abituato a leccare a niente, a nessuno. Io sono io e rimango io. Non gli stava bene? Io me ne vado io. Che ne dite? Francesco, che ne dice? Pronto? Pronto! Provincia di Napoli, Francesco, sì, dica! Sì, salve, volevo chiedere un po' di questo mercato della mia squadra del cuore che è Napoli. Ci è rimasto un po' basiti la cessione di Blavetti, si sapeva. L'abbiamo presa anche se a mare in cuore, però... questa qua di Gargano ci è rimasto un po' basito. E poi volevo dire, per me Zeman ha pienamente ragione. Su cosa? L'abbiamo perso, evidentemente era in spiaggia in riva al mare, beato lui. Napoli che ha perso la Lavezzi, si sapeva. Gargano, giocatore molto importante che è andato all'Inter, e secondo me l'Inter benissimo ha fatto a prenderlo, anche perché Cambiasso ha mostrato la corda già nell'ultima stagione e non solo, quindi Gargano può essere un giocatore estremamente prezioso. Però attenzione a questo El Kadouri, che il Napoli ha soffiato a Milan e Genoa e ha preso dal Brescia, che potrebbe essere un giocatore estremamente interessante. Nunzio, provincia di Venezia. Sì, buongiorno, siamo Genta. Intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Ecco, niente, volevo dire che diciamo si parla tanto di Cassano, si parla tanto delle polemiche di Zema e tutto, e non si menziona, secondo me bisognerebbe parlare anche di cose un po' più positive, ad esempio le 800, io sono un tifoso milanista, insomma, però io ho sempre ammirato Zanetti, e le 800 partite che ha fatto, secondo me 10 Cassano non bastano per fare uno come Zanetti, perché è un grande, è un esempio da seguire, è uno dei pochissimi esempi, insomma, assieme a Totti, insomma, le vere bandiere che sono. Sì, mi sembrano imparagonabili da qualunque, praticamente da qualunque punto di vista, cioè Zanetti è un certo tipo di giocatore, di professionista, di uomo, eccetera eccetera, mi sembrano imparagonabili. Si può dire tutto il bene che si vuole di Xavier Zanetti senza sbagliare. È anche uno molto misurato nelle parole, forse troppo, se c'è un difetto che posso trovargli, però insomma, che cosa possiamo dire di un giocatore come Zanetti? Che cosa possiamo dire di male di un giocatore come Zanetti? Mi sembra quasi un argomento poco interessante, perché rischiamo di essere tutti d'accordo sul punto. Bruno da Bari sarà d'accordo anche lui. Sì, pronto? Sì, Bruno, eccoci. Buonasera. Dica. Ascoltavo per caso qui in auto la vostra trasmissione, faccio una premessa, non sono un grande seguace del calcio, o meglio negli ultimissimi anni non lo sono più, lo sono stato in passato. Ho ascoltato l'ultima parte dell'intervista di Zeman che è stata mandata qualche minuto fa, sul fatto che Conte non ha mai raccontato all'esterno quello che è stato detto all'interno dello spogliatoio. Beh, è un grande, per un motivo molto semplice. Se allarghiamo il discorso un po' ad ampio raggio anche agli altri ambienti, le autodifese d'ufficio servono ben poco. Bisogna avere il coraggio di dire: io sono innocente perché ho detto questo, ho fatto questo, o meglio non ho fatto questo, non ho detto quest'altro. Quindi ancora una volta Zeman è stato un grande. Ricordo comunque i suoi anni a Foggia, che sono stati strepitosi. Sì. Ok? Sì, va bene, anche se Conte mi sembra abbia spiegato in maniera un po' eccessiva nei toni, secondo me non è piaciuta quella conferenza stampa, soprattutto i toni di quella conferenza stampa, perché si può dire qualunque cosa, però dopo aver bevuto un po' di camomille, secondo me. Poi io continuo a tenermi la mia idea in questo enorme pasticcio, continuo a far fatica a pensare che, al di là della credibilità dei pentiti, al di là delle porcate che succedono comunque ogni giorno nel calcio, continuo a far fatica a pensare che un allenatore possa andare in uno spogliatoio a fare quel tipo di discorso in maniera così smaccata e così pubblica di fronte a tutti. Quindi io faccio fatica a pensarlo, perché altrimenti dovrei parimenti pensare che è pratica comune l'aggiustamento delle partite con conseguenti indicazioni a tutti i giocatori della rosa sia una questione normale. Poi cosa sia successo in quello spogliatoio lo scopriremo forse fra qualche anno. Adesso ci fermiamo, poi c'è Fausto da Roma, c'è pubblicità, meteo, poi di nuovo qui. Per ripartire saluto un'altra penna importante, con quella di Giampiero Timossi, secolo XIX. Ciao Giampiero, grazie. Ciao Carlo, grazie. Ciao. A voi, buongiorno a tutti. Senti, posso farti una domanda, così che col calcio non c'entra niente, ma con lo sport sì? Perché mi viene. Certo. Qual è stata la tua sensazione, la tua emozione di fronte al caso Armstrong? L'emozione di una grande sconfitta. Una grande sconfitta di un uomo che ha fatto comunque grandissime cose nello sport e nella vita, che però si trova a questo punto a dover fare i conti con una sentenza durissima. E poi la sensazione che sia davvero passati da una straordinaria maglia gialla a un incredibile uomo nero. E c'è un altro elemento che abbiamo notato ieri: ad Armstrong vengono chiesti, vengono cancellati 7 Tour de France. Beh, se voi andate a vedere la classifica di quelli che lo hanno fatto, non soltanto noi al secolo, ma anche altri colleghi, di quelli che andranno a vincere il Tour, non ce n'è uno uno su 7 che non sia stato squalificato per uno di sostanze dopanti. Quindi insomma davvero è una situazione, una storia brutta, triste per quella che io credo sia davvero la corsa più bella del mondo. Sì, non c'è dubbio. L'altra mia sensazione è che nel momento in cui non serviva più a nessuno, nemmeno alla società del Tour de France, sia stato fucilato e lui ha mostrato il petto e ciao. Senti, ieri sera ho sentito derby pre-campionato al ristorante Garrone Preziosi. Ha cucinato il presidente del Genoa, il presidente della Sampdoria ha portato la torta. Ma che in tempi non è, però questo impone, ma è andata davvero così, questo impone giustamente il galateo, l'etichetta che nella famiglia Garrone insomma è una cosa assolutamente nota, e quindi sanno benissimo come ci si comporta in società, e quindi hanno portato il dolce, hanno portato la torta. Questo ha fatto sorridere alcuni, magari hanno dispettito altri. Non è mai facile in una città come Genova, è diversa da una città come Milano, unire i presidenti delle due squadre cittadine. Ma insomma, poi è emerso anche qualcos'altro, no? in questa cena, e poi diciamolo anche in queste lunghe giornate che i due presidenti trascorrono insieme nello stesso stabilimento balneare di Forte dei Marmi, dico, ma perché anche noi non facciamo un po' come fanno a Milano? Hanno parlato molto del maxi scambio, Cassano all'Inter e Pazzini al Milan, hanno detto, beh, chissà, con i nostri giocatori che magari sono in eccedenza, prima o poi faremo qualche scambio anche noi, cosa che a Genova è molto difficile. Ormai molto più difficile che a Milano, dove sono abituatissimi al salto del naviglio, caro Giampiero. Invece, sentire oggi queste cose da Cassano, che effetto ti ha fatto? Ti sei messo a ridere o hai provato altre, o hai avuto altri pensieri? Ma no, guarda, io ho un pensiero sostanzialmente che hanno in molti, poi soprattutto qui a Genova, e hanno in parte anche i tifosi della Sampdoria. Il pensiero è quello che alla fine Cassano tornerà alla Sampdoria. Parlarne adesso, quando appena sono una manciata di ore che ha cambiato maglia, sembra paradossale, però abbiamo imparato nella storia di un giocatore come Cassano che questo ormai non è più paradossale. Allora vediamo cosa farà quest'anno all'Inter, dove credo che il presidente Moratti abbia coronato un suo sogno, ma anche un sogno del giocatore, dove credo che in fondo le parole di Stramaccioni, che ha insistito molto sul fatto di aver voluto lui il giocatore, siano quasi parole di facciata. Ma mi sembra un allenatore molto, molto diplomatico Stramaccioni, quindi in qualche modo capace di accogliere subito e di conoscere subito quelle che sono le esigenze di un giocatore come Cassano. La prima esigenza di un giocatore come Cassano è quella di farsi di sentirsi molto amato dall'ambiente, di sentirsi parte della squadra, di essere investito di responsabilità. Sono d'accordo. Altro uomo della vigilia è Zeman, che non ha mancato di buttare il solito sasso nel solito stagno. Sì, però insomma, sempre di sassi o gradoni, no? Questi sono un po' i temi, sempre di qualcosa di duro parliamo, di Zeman. Sì. Io credo che però Zeman abbia davvero la grande occasione della sua vita a questo punto. Zeman può e deve dimostrare che riesce a fare cose straordinarie anche con squadre straordinarie. Credo che la sua Roma quest'anno sia davvero una squadra straordinaria, perché ha acquistato quello che è sicuramente il miglior attaccante italiano in circolazione. Una cosa strana, ricorderete tutti che Destro era stato, tra virgolette, tagliato all'ultimo, no? Dalla lista dei giocatori che Prandelli ha portato fino alla finale europea. Beh, avete visto che Prandelli poi ha subito detto: Destro è un elemento cardine della mia nuova nazionale. Sì. Abbiamo notato tutti che in questo periodo adesso non ha mai giocato una gara ufficiale, ma è stato soltanto, sono state soltanto di fatto le trattative di mercato, il fatto che adesso sia diventato l'elemento più importante, il giovane più importante di questo mercato, forse a convincere Prandelli a questa riflessione e a promuovere tra gli titolari, non soltanto tra i titolari, ma tra i punti di forza il giocatore. Sì, anche se ovviamente lo attendiamo a una conferma, perché una sola ottima stagione nel Siena non può bastare per fare primavera. No, però già l'esordio in Serie A con la maglia del Genoa a fianco a in qualche spettone di gara, a fianco a un giocatore di grande esperienza, però arrivato a un momento diciamo così un po' discendente della sua carriera, Luca Toni, destro già con la maglia del Genoa in Serie A aveva fatto vedere che le qualità c'erano, ecco. Grazie Gian Piero, buon lavoro, buon campionato. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Voglio farvi sentire adesso, prima di riprendere a parlare con gli ascoltatori, e tempo ne abbiamo ancora, 800 24 00 24, il numero verde, un altro Cassano su Allegri, con risposta però dell'allenatore del Milan, che mi è sembrata abbastanza sensata. Allora, Cassano. La realtà dei fatti è che io per Allegri ero come giocatore, come due a coppe briscola bastoni. La verità, ero la quinta, sesta, settima punta, non lo so, boh. Questo è... Lui mi diceva che non mi poteva promettere niente, va bene, ok, non mi prometti niente, però almeno fammi sentire importante. Siccome io questa importanza non l'ho mai notata, e ripeto, contavo come due a coppe briscola bastoni, dal momento che io vedo che l'aria non è quella buona per me, devo cambiare. Con me Antonio Cassano ha giocato abbastanza e spesso, poi come tutti i giocatori... Se uno chiede di giocare 60 partite, io non posso promettere che uno possa giocare 60 partite, perché il calcio oggi è così. Ho uno che domani va in tribuna, ora in tribuna non ci vanno più perché sono 23 giocatori in panchina, viene considerato diciamo poco dall'allenatore, poi in domani può succedere il contrario, quello diventa un titolare inamovibile, e uno che è titolare inamovibile non diventa più diciamo un titolare. Però Cassano, a dimostrazione, fatto e dimostra, vuol dire, quando è rientrato dopo l'infortunio al cuore, credo che non è che l'abbia tenuto in tribuna, abbia giocato. Beh, in fondo quante possibilità di giocare ha avuto Cassano con il Milan? È arrivato a gennaio in condizioni improponibili, è stato rimesso in forma, ha giocato anche un finale di stagione interessante e importante l'anno scorso, poi quest'anno è stato fuori 5 mesi, non è che di possibilità anche di iscriversi alla lista ne abbia avute poi tantissime. Ruggero, provincia di Milano. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo semplicemente sentire la sua opinione sul fatto dell'allenatore squalificato, che comunque può rimanere tutta la settimana a decidere la strategia, i giocatori, le sostituzioni, tutto quello che serve per preparare la partita, e poi non vada in panchina per l'ora e mezza effettiva della partita. Sì. Mi sembra che la cosa... Beh, non sia... o cambiamo le regole o è così, perché vale per una giornata di squalifica, per due, per tre, per 10 mesi. Però mi sembra che questa non sia una squalifica, sia semplicemente una... Sono d'accordo, Ruggero, sono d'accordo, però o cambiamo la regola o è così per tutti, cioè nel senso che gli allenatori squalificati hanno la possibilità di allenare la squadra, andare in tribuna, adesso di parlare al telefono, eccetera. Quindi possiamo prendere questo caso per mettere in discussione la regola, però la regola è generale e vale per tutti, non solo per Conte. Cos'è che c'è scritto lì? Mourinho su Kakà, dichiarazione di Mourinho: se non parla è perché non vuole, se resterà lo tratterò con rispetto e cercherò di tirar fuori il meglio da lui. Queste le parole di Mourinho, meglio da lui eventualmente in tribuna o legato alla panchina, come già detto molte volte. Fausto Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Dica. Io faccio una piccola premessa, la seguo da molti anni e non ho mai chiamato, sono un ascoltatore silente, ma apprezzo molto la trasmissione e il suo modo di condurla. Grazie. E lei personalmente. E detto ciò, quest'anno da lunedì a venerdì, mi raccomando, prenda appunti. Prendo nota. Volevo dirle, sono stato motivato nel chiamarla dopo averla sentita dire che Zeman ha improntato la sua carriera, o deve la sua carriera, la sua notorietà al fatto di lanciare il solito sasso nel solito stagno juventino. A me pare esagerata come affermazione. A me sembra che Zeman, quando ha lanciato il primo sasso, il primo macigno nello stagno nel 97 o nel 98, non ricordo, sull'abuso di farmaci e banche, farmacie, eccetera. Già avesse avuto begli anni a Foggia, in cui si era affermato per il bel calcio, non per aver parlato alla Juventus, della quale anzi si sosteneva fosse un tifoso, visto che era nipote di Vic Palek, il tecnico juventino, e che lo, addirittura lui dice che gli metteva la maglietta bianconera in fasce. Sì. E poi adesso, ogni volta che c'è una conferenza stampa, i giornalisti ce lo tirano dentro per le orecchie, e lui, che notoriamente non è una persona che ci si va a tirare, che ha fa della diplomazia la sua arma migliore, dice ciò che pensa, ma guardi, dire che Fausto, che ha costruito un po' il suo personaggio comunque su questa, no, su questa anti-juventinità, no? Perché è un allenatore che allora il discorso è questo: è un allenatore che, come tutti gli allenatori, ha avuto alti e bassi, ha avuto periodi in cui era in auge, periodi in cui ha fallito delle missioni. Grosso modo, squadra l'ha trovata sempre. È sempre stato comunque un allenatore molto, un personaggio molto popolare, ed è stato un personaggio molto popolare, io credo, oltre che per il calcio unico che sa proporre, anche per questa sua aurea di censore dei costumi. Credo che, ripeto, la mia sensazione è che non credo inconsapevolmente, perché non sono fesso, però credo che Zeman su questa sua nomea, su questo suo fascino e bandiera per tutti gli anti-juventini, si sia un po' costruito il suo personaggio. Ma non dico che abbia fatto male, sto semplicemente esprimendo quella che è la mia sensazione. Traffico, poi Nereo, Sergio, Andrea, altre voci, eccetera. 800 24 00 24. Dunque, a dire la verità, con il vostro permesso di sentire Cassano, mi sono stufato, anche se avrei molte altre possibilità, molti altri brani della sua lunga conferenza stampa. Vorrei invece, prima di tornare a parlare con gli ascoltatori, sentire che cosa ha detto Collina su una delle grandi novità stagionali cui facevo riferimento prima, novità che mi piace naturalmente, quella dei sei arbitri, compreso quello di Porta. L'altra novità è quella delle panchine lunghe, cosa che trovo pure estremamente interessante. È stata presa in non grande considerazione, novità uscita negli ultimi giorni prima dell'inizio del campionato, ma è secondo me una grande idea. Però stiamo sulla questione arbitrale e sentiamo Collina. Bisogna rendere atto alla Federazione Italiana Gioco Calcio di aver creduto in questo sistema, e all'Associazione Italiana Arbitri di avere dato la disponibilità a non avere paura di una novità che vedrà impegnati gli arbitri italiani fin dalla prima giornata del campionato di Serie A, non aver paura di qualche cosa che invece magari poteva spaventare. Le cose nuove solitamente tendono a creare qualche problema. È vero che molti arbitri italiani avevano già arbitrato con i due arbitri addizionali nelle ultime tre stagioni in Europa League, nelle ultime due stagioni in Champions League. Uno di loro, Rizzoli, aveva arbitrato agli europei, per cui non era una cosa assolutamente nuova. Ne parlavamo prima, con tutte le difficoltà che si fanno dalle nostre parti ad introdurre qualcosa di nuovo, qui almeno si è fatto presto. Nereo, Rimini, buonasera. Buonasera, gente. Senta, io volevo parlare di doping, volevo parlare, partire da Armstrong. Gran bell'argomento, No, ma a me mi ha sconvolto il fatto che questo qui ci ha preso per i fondelli per tanti anni, sì, e poi a un certo punto gli tolgono soltanto i titoli, ma i soldi che ha guadagnato gli tolgono? Andranno nel bottino anche quelli, non le so quantificare quale sarà il danno economico per Lance Armstrong, però andranno nel bottino anche quelli. Ci ha preso per i fondelli per molti anni, non è mai stato trovato positivo ad alcun controllo, lo ricordo. Io le dico... dico una cosa, io sono sempre abituato a pensare male, no? Io mi ricordo ancora quando lui andò su insieme a Pantani a quella salita là in Francia, al Mont Ventoux, mi sembra, e poi fece vincere Marco Pantani l'ultima grande vittoria. Ma Pantani già che era dopato al massimo, lui lo scherniva, lo andava su con lui ridendogli in faccia, no? Allora la stessa cosa mi viene in mente nelle ultime Olimpiadi, che c'è stato un personaggio che adesso è all'apice che ha fatto la stessa cosa con tutti gli altri avversari. Lei ha capito chi è? Bolt. Bolt. Lui ha nelle gambe, adesso come adesso, almeno un secondo in meno dei tempi che sta facendo. Non può essere, quindi escludiamo che sia un fenomeno? Al 100%, salterà fuori fra qualche anno, che ci ha preso per i fondelli, e quando salterà fuori quando salterà fuori saremo qui a parlarne. Se poi vogliamo fare un altro discorso molto palloso sul fatto che a mio parere, ne parlavo anche ieri con Eugenio Capodacqua, alla fine forse per certi personaggi di piccolo calibro il doping possa essere qualcosa di economicamente conveniente, nel senso che c'è una squalifica alla fine circoscritta, le sanzioni sono accettabili e dunque uno si può fare anche quattro conti. Però io francamente non riesco a pensare come lei che non ci possano essere fenomeni nello sport se non con l'aiuto della chimica, perché altrimenti appendo la cuffia al microfono ed esco di qui 10 minuti prima. Sergio, Napoli. Buonasera, sono Sergio da Napoli. Buonasera. Senta, vorrei sentire la sua opinione sul fatto che De Laurentiis qualche volta è stato un poco preso in giro già due anni fa, quando prima della Lega, quando ci furono sorteggiati i campionati, lui se ne scappò in moto. La famosa gag del motorino, fantastica. Però dopo, in effetti, le partite, lui si lamentava, infatti, le partite prima della Champions League, tutte quelle là, che non dovevano essere scontri diretti. E quest'anno è stata approvata questa cosa. Poi, il fatto della panchina lunga, mi sembra che è venuta anche da De Laurentiis questa cosa. Però nessun giornalista l'ha messo un po' in evidenza questo fatto. Quindi merito, onore e merito De Laurentiis. Mi sembra che il cammino di Champions League del Napoli dell'anno scorso alla fine non sia stato granché inficiato dal calendario. A me quella era sembrata una buttata abbastanza pretestuosa di De Laurentiis, molto colorita. Se ricordo la scenetta mi viene da ridere ancora adesso, mi è piaciuta, mi piacciono grosso modo queste cose un po' da istrione, da personaggio, però io credo che insomma il calendario e della Champions e del campionato non abbia granché inficiato il cammino del Napoli né da una parte né dall'altra, che è stato in Europa meraviglioso, in campionato secondo le aspettative grosso modo. Andrea, Milano. Sì, pronto, salve dottor Genta, sono Andrea da Milano, tifoso juventino. Mi consenta un po' di infermità mentale. Va bene, perché non vedo grossissime avversarie. Ma guardi, tanto sicuramente troveranno qualcosa per dirci che il campionato comunque sarà falsato. Non faccia così anche lei, non cominci a mettere le mani avanti, non faccia il dietrologo subito. No, va bene. Parliamo di campo, mi sembra che la Juventus sia stata regina di questo mercato. Poi non so se lei voleva il top player era il top player giusto. Sono contento che non sia venuto Van Persie, perché secondo me Van Persie avremmo strapagato, non avremmo d'accordo. E poi Van Persie non avrebbe trasformato la Juventus in una squadra competitiva al massimo livello in Champions League. E in Italia io vedo una tale distanza in questo momento tra la Juventus e le altre che sarebbe servita a poco anche lì, diciamoci la verità. L'unica mia speranza è che l'assenza di Conte per dieci mesi poi alla fine non possa avere un certo peso, perché ho sentito i suoi radioascoltatori, alcuni che dicono che sarebbe meglio che addirittura non allenasse, eccetera, insomma ripeto, le regole sono regole scritte, quindi o prendiamo l'occasione per cambiarle perché è qualcosa di eccezionale, eccetera, o altrimenti l'allenatore squalificato per 1, 2, 3, 4, 5 giornate, 10 mesi, fa quello che le regole gli consentono. Sono d'accordo, tra l'altro bisogna anche considerare un po' anche la giustizia sportiva dovrebbe essere in qualche modo rinformata, perché comunque anche il procuratore Palazzi, che salta da 3 mesi di patteggiamento a 15 mesi di sospensione, mi sembra veramente una cosa assurda. Io, indipendentemente che Conte possa avere delle responsabilità o no, però oggettivamente di fronte a delle manifestazioni di tale discrepanza, è la Corte di Giustizia che non ha accettato il patteggiamento. Io addirittura ho il sospetto che abbiano sbagliato i conti. Conti, a parte Conte, che probabilmente avrà sbagliato perché non voleva patteggiare, però io credo, essendo tifoso, che Palazzi possa averlo fatto anche in malafede. Nel senso che avrebbe lo ha letto a patteggiare, gli dico 3 mesi, così sicuramente anche gli altri ha fatto apposta come i bambini. Non ci credo, Andrea, lei mi è molto simpatico, ma non ci credo che gli abbia fatto questo giochino da bambini delle elementari, lo scherzetto da bambini delle elementari. Non ci credo, credo piuttosto, sono rimasto abbastanza sorpreso del fatto che insomma non si sia arrivati ad un accordo equo, in modo da evitare questo putiferio. Ma che Palazzi abbia fatto lo scherzetto cinese alla Juventus, guardi, mi permetta di non crederle, la prego. Marcello, Bologna. Buongiorno, innanzitutto le faccio i complimenti, perché rispetto a Garanzini c'è l'abisso, molto meglio lei, sia quello di condurre che quello che dice. Quindi sempre ragionamenti intelligenti. E poi niente, voglio intervenire, cioè secondo me, io sono lei, simpatizzo per il Bologna, normale, la mia città. Sì. E lei prima ha citato Ramirez. Sì. Come lo vede come giocatore, nel senso, secondo lei si aspettative, nel senso, se è un buon giocatore o se invece è un po' così. Cioè, che tipo di giocatore è, se può esplodere, secondo me lo devono vendere, perché sennò si va tutta. No, ma lo vendono, Marcello, lo vendono, tanto che l'ho detto prima, non è stato nemmeno convocato Ramirez. Però questi giornali locali dicono il contrario, dicono che lo so, però io le dico che oggi non è stato convocato da Pioli, e questo qualcosa vuol dire, quindi sono ai ferri corti. Ramirez vuole essere ceduto, il Bologna sta aspettando un'offerta congrua, quindi credo che vada da un'altra parte. Mi sembra un giocatore estremamente interessante, però vale anche per Ramirez, in parte almeno, il discorso che facevo prima per Destro, perché siamo abituati a vedere una buona stagione di un giocatore e a dire: ah, ecco che è nata la nuova superstar. Calmo un attimo, io ho bisogno di metterci il dito 2 o 3 volte. Di vedere 2 o 3 campionati, di vedere una crescita costante, eccetera, eccetera, prima di parlare di fuori classe, di crack, di superstar, eccetera, eccetera. Ramirez ha fatto un grande campionato l'anno scorso nel Bologna, e questo è indiscutibile. Non giocherà più nel Bologna, credo questo sia altrettanto indiscutibile. Se non ci sono grandissime offerte, magari qualche ragione ci sarà pure. Giuseppe da Treviso, e poi salutiamo tutti. Niente, volevo parlare a riguardo di Conte. A riguardo di Conte. Sì. Se venisse fuori che Carobbio fra qualche mese dice che ha detto delle cavolate, sì, cosa succederà? Cosa succede a Palazzi? No, non c'è niente da ridere. Vorrei sapere cosa succede a Palazzi. Succede come quando è successo quello che è successo con l'Inter, che ha tirato fuori le carte 2 anni dopo, quando tutto è andato in prescrizione. Ma magari sì, magari piantano una croce sul palatino, non lo so. Allora, torno a ripetere. Il processo sportivo così com'è è una bufala. Io continuo a credere che Conte non abbia fatto, però basta, no? Non fatevelo più ripetere, perché sennò davvero mettiamo i dischi. Non posso pensare che un allenatore professionista, intelligente, e esperto e uomo di calcio come Conte vada in uno spogliatoio a fare un discorso di quel tipo. Mi sembra una vicenda molto melmosa, in cui trovare della credibilità assoluta sia abbastanza impossibile, perché è una vicenda impastata di millanteria, di omertà, eccetera. Quindi sia impossibile in questo momento trovare una verità assoluta, Palazzi o non Palazzi. Ci sarò quest'anno, cari amici, ma dal lunedì al venerdì. Domani però qui a raccontarvi la prima di campionato dalle 5 alle 6. Giorgio Drughi in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti.